Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Buonasera cari ascoltatori e una buona sera al mio amico Antonio Ceccato che è qui di fianco a me. Buonasera Gesi, buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Eccoci qua per un'altra ora in compagnia e questa sera per la parte musicale abbiamo Peppino Gagliardi e come ospite abbiamo la poetessa Renata Alberti. Buonasera Renata. Buonasera Renata. Benvenuti. Buonasera a tutti voi e a Daddy in regia. E a tutti gli ascoltatori. Renata è una poetessa, è tutto fare Renata, vero? Beh, insomma, sto cominciando a rallentare un momentino data la mia età, però voglio portare avanti tutti i progetti che ho iniziato con la grazia di Dio se mi aiuta. Parlaci un momentino di te, perché sai, penso che gli ascoltatori si ricordino, ma non tutto. Da 20 anni, da quando cioè a 50 anni ho iniziato questo percorso, continuo con impegno e con gioia a portare avanti e sia la poesia che il mio essere tra la gente. Cosa vuol dire il mio essere tra la gente? Ascoltare le persone che soprattutto in questo ultimo anno hanno particolarmente bisogno di essere ascoltate. E posso dire che c'è tanta desolazione in giro e mi dispiace perché dobbiamo, compresa me, guardare il futuro, riguardare il futuro in modo diverso, con più fiducia, nonostante tutto quello che ci viene offerto giorno per giorno di negativo. E perché dico questo? Perché mi accorgo che comincia a mancare la vicinanza con il Padre Eterno, con il Signore in alto. Dobbiamo riavvicinarci a Lui. Allora, Antonio, cosa dici? Cominciamo con la prima canzone? Naturalmente. Che vuole questa musica stasera? Che vuole questa musica stasera? Che mi riporta un poco del passato? La luna ci teneva compagnia. Io ti sentivo mia, soltanto mia, soltanto mia. Vorrei tenerti qui, vicino a me. Adesso che fra noi non c'è più nulla, vorrei sentire ancora le tue parole, quelle parole che non sento più. Il mondo intorno a noi non esiste. Che mi riporta un poco del passato. Che mi riporta un poco del tuo amore. Che mi riporta un poco di te. porta un poco del tuo amore, che mi riporta un poco di te, un poco di te. Ed eccoci di nuovo in studio con la nostra amica poetessa Renata Alberti, alla quale chiediamo degli esempi delle sue composizioni. Grazie Antonio. Allora, ultimamente ho seguito una mostra di un fotografo di Domegge, direi non bravo ma bravissimo, e lui ha esposto 14 fotografie sulla natura delle Dolomiti. È un lavoro curatissimo, l'aspettare l'aprirsi di un fiore. Tutto è nato però quando io ho visto la foto di una farfalla appena uscita dal bozzolo sopra un ramo di pino, e lì è scattata veramente, è scattato l'innamoramento per questo fotografo. Il desiderio di scrivere poesie. E anche nel giro di un giorno avevo già scritto Metamorfosi, oltretutto la farfalla mi sta seguendo nel mio cammino da 20 anni, da quando una farfalla si è posata sul mio dito ed è rimasta lì 2 ore e non se ne voleva più andare. Nel tempo, anche poco tempo fa, mi sono ritrovata a vivere la stessa situazione con una farfalla sulla mia mano. Ma guarda. In tutto questo io vedo leggo qualcosa di trascendente, e per me ogni farfalla che vedo ha un significato, rimango proprio ti ispira qualcosa. Ed è nata Metamorfosi. Bene. Nella trasparenza dell'alba si blocca il respiro per fermare con uno scatto l'unicità del momento, del primo fremito di bianche ali che dà il là a una nuova vita, da un vecchio tubino fuoriuscita, mentre il pino sta a guardare. Bella. Da questo incontro con questo fotografo, con questa immagine, è nata una collaborazione appena finita. È stata una mostra molto visitata, è stata una mostra molto ammirata e sarà itinerante. E auguro a questo fotografo che lui possa cogliere tutti i momenti belli che la natura ci offre e riportarci con queste immagini a una freschezza nuova. Su questa mostra gli hai scritte parecchie poesie. Sì, poi ho fatto a te. La mostra era a tema, ogni fotografia aveva una mia poesia a fianco. Ah. Alfredo Piccolo, questo è il suo nome, con questa mostra Trasguardi, già nel titolo penso ci sia tutto, Trasguardi, credo veramente che darà il via anche lui a una nuova vita fotografica. Ho capito. Beh, allora ne leggiamo un'altra. Sì, allora io adesso però vorrei parlarti del mio progetto prossimo futuro. Va bene, allora parla del progetto prossimo futuro. Ho messo insieme da quest'anno un team di poetesse, insegnanti poetesse, che è diverso, loro hanno già un approccio diverso anche con i bambini, oltre alla loro sensibilità per la vita. Perché il tema è ancora una volta, non so se ricordi Jesi, che io sono stata qui molti anni fa, sì. Dentro la vita. Sì, sì. Ecco, riprendo questo lavoro interrotto un paio d'anni fa per motivi familiari, e riprendo con questo gruppo e andremo nelle scuole a parlare della vita, dell'importanza di accettare la vita. In poesia, che non è la stessa cosa che parlare normalmente della vita, dobbiamo far scattare nei bambini e l'amore per la vita e l'amore e la conoscenza a scrivere versi, a poetare. Che sì, che non è facile insegnare a un bambino a poetare. Io dico, Jessy, che se noi trasmettiamo con amore le nostre conoscenze e il nostro bagaglio che abbiamo accumulato nella vita di donne nostro, di mamme, di nonne qualcuna, ecco, penso non sia difficile far scattare questa curiosità e questa voglia di sapere anche nei bambini. A te nuova vita, questo è l'inizio. Dallo spirito al mistero sei entrata nell'interno dei sensi che ti accolgono e raccolgono vita, interscambio divino umano, realtà ora nutrita in uno spazio predefinito di infinito. È un po' difficile. È un po' difficile. Sì, perché passo predefinito, spazio predefinito, infinito. Forse bisognerebbe leggerla più volte per entrarci dentro davvero. Sì. È chiaro che ci sia una necessità di reiterazione, di ripetizione e compagnia, perché si possa sedimentare il sentimento, perché i sentimenti non sono immediati molte volte, ma hanno necessità di un filtraggio, di una sedimentazione un po' come una clessidra dove scorre la sabbia e quindi poi si deposita. Giusto, Antonio, hai detto giusto. Comunque, questa è la poesia proprio da dare il via a questo gruppo di persone e poi loro ci lavoreranno sopra e poi loro con il loro sapere scriveranno cose nuove, sì. Magari più difficili o magari più facili. Però è una contaminazione, sì, deve essere una contaminazione. Certo. Io la vedo così. Perché è un argomento forse il più grande, anche senza forse, che ci siamo trovati noi ad affrontare. Bene, bene, ma è un bello dall'inizio proprio del mondo. Ho capito. Ne hai delle altre su questo? Su questo tema sì, sì. Mi aggancio a una vecchia, praticamente quando ho iniziato nel 2003 con i bambini della scuola e poi è stata raccolta in un libro di disegni e poesie di bambini ed è questa. Ogni giorno è un fiorire di grazia infinita, ogni aprirsi alla luce è un rifiorire, un prendere vita. Un impregnarsi di spirito in ogni inclusione di nascita. Da allora ho continuato e continuerò a far parte di questo mistero in cui mi sono trovata ad essere una pedina, una matita da colorare un foglio e spero di fare bene il mio lavoro e di continuare. Sì, l'importante è rileggerle queste poesie, perché lette così la prima volta senti il bisogno di risentirle, ecco. Ne sono consapevole. Sì, perché sono belle, ma penso che andrebbero rilette, vabbè. In effetti io adesso sto mirando proprio a questo, di raccogliere e le mie e quelle frutto del lavoro nostro prossimo in un libricino, di modo che ognuno se le può proprio non solo leggere ma meditare e approfondire. Chiaramente, sì. Allora andiamo con un'altra canzone. Andiamo con la seconda canzone, che è sempre naturalmente di Peppino Gagliardi, Accanto a chi. Che non mi ami più, accanto a chi vivrò, a chi darò tutto l'amore che ho dato a te, non c'è più luce né nella mia stanza, non c'è più luce nella mia vita, ora che so che tu mi lascerai. Accanto a chi vivrò, a chi racconterò le stesse cose che raccontavo a te. Non c'è più luce nella mia vita, ora che so che tu mi mancherai, ma canto a chi vivrò, a chi racconterò le stesse cose che raccontavo a te. Non c'è più luce nella mia stanza, non c'è più luce nella mia vita, ora che so che tu... La nostra ospite Renata Alberti, che continuerà il suo cammino per farci partecipi delle sue opere. Jessy, volevo intanto ringraziarti per l'invito che mi hai fatto a marzo e che ho presentato anche qui in Nonno Vento Racconta. Ah, che bello! Ecco, che volevo bello. Dirti che è stato presentato il 10 di agosto nella magnifica comunità di Pieve di Cadore. La sindaca è stata entusiasta di questo libro e di questa presentazione e praticamente il libro continua a circolare, ad essere venduto. Dov'è qui? Dove si trova qui? Qui a Treviso, da Canova. Ah, da Canova. Poi non lo so dove, comunque su internet è in diversi siti. Ah, capito. E, ti anticipo già che a dicembre con l'editore andremo a consegnare in oasi pediatrica quanto raccolto fino a quel momento, che è già una cifra rilevante. Bene, bene, bene, bene, bene. Sono bene. Contenta di questo lavoro, sono contenta veramente che Nonno Vento sia stato accettato così, e dai bambini, e dai nonni, e dalle... Chissà i bambini che contenti che sono. Sì, perché... se ne innamorano. Sì, perché quando... solo il titolo, Nonno Vento, dà già un qualcosa ai bambini che... Che lì un'emozione, stuzzica, perché sì, è evocativo, un'emozione, di tante, sì, cose. Sì, sì. È evocativo, poi sì. È una metafora sulla vita e vabbè, serve anche questo. Esatto. Beh, certo. Ma tu hai sempre scritto tante belle cose, per quello. E io oggi, sai, cosa, questa sera cosa ti ho portato? A differenza delle altre volte, ho portato poesie per bambini. Vabbè, dai, le ascoltiamo. E poi sono, non fanno parte di nessuna raccolta, sono libere queste, perciò non sono state ascoltate ancora quasi da nessuno. Ah, sono inedite, allora, proprio. Sono alcune inedite, alcune le ho lette da qualche parte io, però non sono mai state pubblicate. Benissimo. E danno però anche queste un insegnamento, quasi tutte. Bene. E tra le righe bisogna saper leggere. Vabbè. E inizio con il quadrifoglio. Sì. Un semplice quadrifoglio a Jessy può ispirare una poesia. Sì. In un campo di trifoglio, un giovane quadrifoglio si rimirava con troppo orgoglio. Cantava superbo. Di una pioggia di sepali sono il solo erede con quattro petali. Ma una mano, avida e impietosa, spezzò il suo gambo e se lo portò via. Il quadrifoglio si trovò solo e spaesato, essiccato e pressato, dentro un libro di filosofia. E l'orgoglio, ahimè, schiacciato dalle parole di un foglio. Bella, bella, bella. Mamma mia, speriamo che non si sentano queste regole. Benissimo, possiamo proseguire con altre poesie di questa. Giochi nell'acqua. Ti dirò che sono un'appassionata di animali, grazie a mio marito Carlo che ha fatto l'imbalsamatore, che mi ha contagiato sia nell'amore verso gli animali che anche proprio nel seguire abitualmente attraverso la TV, i libri, le storie degli animali. E così nascono le mie poesie, osservando gli animali. Giochi nell'acqua, stavolta è per i pesci. Nell'andare e tornare dell'acqua si rincorrono un invisibile crinoide con un esile spinoide, serpentine nervose con stelle marine spinose, mentre nel fondo piatto, avvolto da una calma fredda, un sornione pesce gatto attende paziente la preda. E anche queste rime proprio che evocano tutte queste come filastrocche e compagnia, è proprio quel lato giocoso, ludico, diciamo, che può affascinare i bambini. Il lato ludico, però poi loro dovrebbero cercare nei libri e andarsi proprio a vedere il verso per vedere il riferimento a chi io ho scritto. Esatto. E perciò è anche educativo anche Infatti, questo. Infatti ha una duplice funzione, sempre attraverso le emozioni, attraverso questa evocazione. Diciamo, Antonio va sempre al punto giusto. Cerchiamo di interpretare, diciamo. Ecco. Grazie. Ecco. Dentro il mare blu, nella barriera corallina, una tossica flabellina e una riservata ciprea, dalla coloratissima livrea, si siedono sui rossi coralli ad osservare i pesci pappagalli. Con la sua nuda conchiglia, una lepre di mare bisbiglia a una cerulea patella la solita noiosa storiella. Ammira il mio vestito di seta, simile a quello di una stella cometa. Una ticiniola dal mantello vistoso osserva con fare spocchioso serpeggianti gorgonie, agganciate a snodate poseidonie, e con uno sberleffo e una risata si tuffa nel blu dell'acqua salata. È straordinario. I comportamenti umani si riflettono anche in fondo al mare. Esattamente. Stavo pensando che i bambini hanno da imparare, ma soprattutto hanno da insegnare agli adulti, ho l'impressione. È vero? E qualcuno ha detto, non è che noi dobbiamo scendere a livello dei bambini, ma dobbiamo salire al loro livello. Quindi sarebbe anche qui da, come dire... fare una diversificazione, fare un'inversione di parametri ai quali siamo abituati. Non so se sei d'accordo. Sono d'accordo. Perché a volte io mi stupisco davanti a... alla loro sagacia anche. Alla saggezza proprio, che non ha nulla da invidiare a quella degli adulti, anzi. Antonio, io ti dirò che ho un nipotino che non ha ancora 4 anni e a volte veramente mi spiazza con la sua saggezza. Saluto Tommaso, visto che ho l'opportunità di farlo, e chiedo veramente a Tommaso che lui continui con questa innocenza, ma con questa saggezza a diventare grande. È importante. Possiamo proseguire. I molti pesci a tavola parlano. Ancora una lirica con il tema dei pesci. Benissimo. Li faccio parlare questa volta. Mm-hmm. Sono io il commensale più importante, dice orgoglioso il polpo gigante. In mare ero il re della scogliera. Ora invece, anche se arrabbiato, sto seduto scomodo su una zuppiera con il mio vestito tutto ricciato. Io, più fragile e esitante, stritolavo vongole e telline, e anche se ora sono tagliata a sottili fettine, mi vedo ancora conturbante. Io ora sono una sgombrina pastellata, come una signorina super truccata. Preferisco però essere stata qui invitata che finire in me in una scatoletta sfilettata. Noi argentate alborelle, tutte sorelle gemelle, anche se siamo eleganti e belle, finiamo fritte in bollenti padelle. Ci chiamano goffe cozze, ma siamo ricercate più delle razze, perché sediamo vicino alle ostriche, principesse di rango, ma davvero ostiche. Vabbè, vabbè, resterò sempre uno scorfano, anche se in mare ero un furbo sovrano. Ero bravo, facevo il finto sornione, poi, zac, giù tutto in un sol boccone. Oh, beh, io ero una bellissima stella, ora come si vede, reggo una candela. Belli o brutti, poveri o altolocati, anche i pesci finiscono imbrogliati, bolliti, fritti, alla piastra, nei piatti. Una dura verità. Simpatica, simpaticissima. Ecco, noi adesso abbiamo il tempo per un ulteriore intermezzo musicale che è sempre di Peppino Gagliardi, La mia poesia. Eri un immenso azzurro, solo e soltanto mio. Sentivo solo te, parlavo solo a te, non c'era vento che ti portasse via. Eri la mia poesia. Eri la mia poesia. Un poeta, un poeta, mi sentivo con te e cantavo le cose più belle, le cose più grandi, più dolci per te. Parlava la luna, parlava le stelle, a tutte le cose di te. Ed i sogni più belli del mondo, in fondo ai tuoi occhi, cercavo con te. Sentivo con te e cantavo le cose più belle, le cose più grandi, più dolci per te. Alla tua ingenuità, alla tua ingenuità. Eri una poesia, la mia poesia. Alla tua ingenuità, poesia, la mia poesia. Ed eccoci di nuovo in studio con il nostro solito intermezzo, Storie de che altri, durante il quale cerchiamo di dare qualche impressione linguistica, diciamo, in altri idiomi, emozioni e sentimenti che naturalmente non hanno barriere come quella linguistica. Questa volta abbiamo una poesia di Raymond Carver, The Poem I Didn't Write. Here is the poem I was going to write earlier, but didn't, because I heard you stirring. I was thinking again about the first morning in Zurich, how we woke up before sunrise, disoriented for a minute, but going out onto the balcony that looked down over the river and the old part of the city, and simply standing there, speechless, nude, watching the sky lighten, so thrilled and happy, as if we'd been put there just at that moment. Bene, la poesia che non ho scritto. Ecco la poesia che volevo scrivere prima, ma non l'ho scritta perché ti ho sentita muoverti. Stavo ripensando a quella prima mattina a Zurigo, quando ci siamo svegliati prima dell'alba. Per un attimo disorientati, ma poi siamo usciti sul balcone che dominava il fiume e la città vecchia e siamo rimasti lì senza parlare, a osservare il cielo schiarirsi, così felici ed emozionati, come fossimo stati messi lì, proprio in quel momento. Bene. Lasciamo la parola. Adesso che emozione dall'alto di questa di questo amore, scendiamo a un altro amore, però altrettanto valido, è il Martin Pescatore. Bellissimo. Mi affascina il suo modo di dichiararsi alla sua innamorata. Si tuffa dentro un gorgo, afferra un pesce dalla testa e veloce torna a far festa, donandolo alla compagna. Un Martin Pescatore innamorato, con questo gioco d'acqua bagnato, il futuro alla specie ha assicurato. Bella. Bella. I vari comportamenti, vedi, praticamente... Che richiamano quelli umani. Richiamano quelli umani. Sì, quelli umani. Arcani fenomeni. Nel cielo, svuotato da stormi di storni, solitarie poiane, monotone upupue, noiose pittime, navigano insieme a torcicolli dall'atteggiamento viziato, ridisegnando il cielo di arcani fenomeni. Bella. È una meraviglia anche osservare il cielo con i voli degli uccelli. Ah, straordinario. È straordinario. Bello. Riuscire a... Richiama come... pensieri, un po' come la poesia di Carducci, eccetera, sì, eccetera. È vero. Belle, belle. Il serpente clemente. Anche questo parla? Rimango sempre sugli animali. O pesci o d'animali. Sì, sì. Il serpente clemente, con il fiato agitato, strisciava impaziente, inseguendo un ratto. Ma l'astuto ratto, per evitare la mortale morsa, con un improvviso scatto invertì la sua paurosa corsa, lasciando il serpente alquanto insoddisfatto. Poverino. ne aveva motivo. Sì. Aveva motivo. Poverino, sì. La sfilata delle formiche. Mamma mia, che effetto brutto che mi fanno le formiche. Mi fanno effetto brutto. Beh, forse dopo questa poesia ci ripensi un momentino. Vediamo. Nervosismo, sorrisi, contese... Dietro tele di ragno sospese a mo' di quinte d'argento dipinte. Nella calda sera d'estate, all'là di una cinciarella, formiche agghindate sfilano in passerella. Con il sole ormai basso, li accompagna un rospo dal fosso. Attacca poi, dopo un salto, una rana con la voce di contralto. Nel cielo, una luna incantata si gode l'elegante sfilata di quei modelli originali non adatti però a tutti gli animali. Sembra che hai una fantasia, Renata, bellissima. Hai una, veramente, sì, ci vuole tanto, non lo so, come ti vengono queste... Guarda, sono un flash, a volte non lo so spiegare neanch'io me stessa. Guardo sti animali muoversi, i loro atteggiamenti e mi metto a scrivere. Sì, sì, ma guarda che... A portare sulla carta le emozioni che loro mi tramandano. Mamma mia, ma esprimi quelle immagini belle proprio... Sì, veramente, non so, ecco, non mi rendo conto come uno possa avere una fantasia del genere. Vabbè. Creatività. Creatività. A volte lo chiedo a me stessa e dico, ma non è frutto tuo, Renata, questo è frutto. Invece... E c'è il tuo angelo custode che ti sta suggerendo le parole da scrivere. Invece è proprio frutto tuo. Sì, però, hai capito, mi sento come una voce nelle orecchie che praticamente... Suggerisce. È vero, sì, Antonio, è una cosa stranissima. Sì, sì, è una cosa stranissima, però queste sono le mie sensazioni. Eh beh, certo, perché uno che scrive... Inimitabili, chiaramente. Certo. Ancora una. Sì, certo. La vanitosa Patty. Patty, questa era una cagnolina che conoscevo. Patty, la vanitosa bassotta, dalla lucida rasa pellicciotta e dai 100 scialletti, usciva da casa ogni mattina con un cappellino di merletti per una passeggiatina. Con fare altezzoso e a volte spocchioso, girava per la città con la sua originalità. Poi si sedeva al caffè per gustarsi un frappè. Di ritorno sospirava, sognava e pensava al suo incontro serale con Otto, l'elegante bassotto dal nero cappotto. Che carino! Bella! Ecco. Simpatica! Beh, sono tutte metaforiche. Naturalmente. Beh. Queste qui piaceranno ai bambini, sicuro. Io spero che ci siano tanti bambini questa sera ad ascoltare. Beh, ma no, no, Blu domenica. Radio Veneto. Sì, sì, stasera, sì, sì. Ecco, la volpe Rossi, dal fondo della boscaglia, con una veloce mossa, sbuca con aria canaglia un'astuta volpe rossa. Un bianco leprotto nella radura scappa veloce, preso dalla paura. In un battibaleno, chiassosi uccellini diventano... lontani, neri puntini. Un vecchio fagiano tenebroso si nasconde dietro un cespuglio spinoso. Rossi si ritrova sulla spianata con la pancia vuota e affamata. Profumi di carne e odori diventano improvvisi languori anche ad una volpe astuta rimasta a bocca asciutta. Qualche volta anche la volpe. Belle, belle, sono simpatiche. Sono felice di farvi sorridere, forse ci voleva un po' di... Ne abbiamo bisogno, effettivamente. Ne abbiamo bisogno. Sì, sì, decisamente. Un po' di cambiamento, Jessy, dalla tua abituale... dal tuo abituale tono alto di ricevere ospiti. Okay. Il cinghiale. Lo scorbutico cinghiale, zufolando come un maiale, nelle sue scorribande si ingozza di ghiande. Ma con i suoi aguzzi denti azzanna anche serpenti, lasciando esterrefatti perfino cani e gatti. Addirittura azzanna serpenti. Eh sì, vedi che questo... Ci vuole... Sì, ma non è che si sappia molto questo discorso dei cinghiali che mangiano i serpenti, perciò... Ho cercato di puntualizzarlo proprio per farlo conoscere dare ai bambini. Delle nozioni anche scientifiche, sì, diciamo. Sì. Ecco. Volete okay. Ancora qualcos'altro? Sì, ancora qualcos'altro? Allora sì, finiamo sì. Con Festa nella foresta. Sì, che dopo facciamo ascoltare una canzone. La salamandra Alessandra invitò gli amici della foresta a una grande festa sotto la chioma di una ginestra. Arrivò per prima Susanna, la petulante rana, insieme ad un rospo saltellante con in testa un verde turbante. Le seguì Rossella, l'altera, velata, vedova nera, accompagnata dal suo nuovo compagno, Nino, un grosso rosso ragno. Con la piccola borsetta giunse l'Appa e Rosetta, insieme all'inseparabile Ottone, un rumoroso calabrone. reduce da un esotico viaggio, ecco Piero, lo scarafaggio, a barrecetto di Graziella, una fortunata coccinella. Concluse la sfilata in gran bellezza la farfalla onorata, che con la sua innata leggerezza diede inizio alla pazza festa nella radura della foresta. Molto carina, molto carina. Sì, sì. Ok, allora possiamo passare ad un altro brano musicale, sempre di Peppino Gagliardi. Ti amo così, una dichiarazione d'amore. Ecco. Se in autunno ormai le foglie già ingiallite cadono giù, se la neve nell'inverno gela il cuore come fai tu, spunteranno in primavera le viole anche in amore. Ed io vivo aspettando e ti amo così. Se mi parli sento tanta tenerezza dentro di me, nel ricordo di quel tempo ormai lontano, pieno di te. Se mi guardo intorno in ogni cosa viva c'è un po' di te, e sui volti della gente indifferente io vedo te. Ma se stringo le tue mani fra le mie, io ritrovo il mio mondo e ti amo così. Nell'inverno gela il cuore come fai tu, spunteranno in primavera le viole anche in amore, ed io vivo aspettando e ti amo così. I volti della gente indifferente io vedo te, ma se stringo le tue mani fra le mie io ritrovo il mio mondo e ti amo così. Ed eccoci di nuovo in studio con la nostra poetessa Renata Alberti, la quale ci leggerà altre poesie sue. Non è una mia poesia, Jesi, questa è una poesia scritta da un ragazzino di quinta elementare del 2009 della scuola Bindoni di San Pelaio, però ha fatto parte della raccolta dello splendido libro Dentro la vita, è stato edito dalla Regione Veneto, è stato un lavoro al quale io ho dedicato 5 anni di incontri in quella scuola, e comunque il raccolto è stato il top. Bene. Il massimo che potevamo con l'insegnante Lucia Buccelli, sì, di cavare, ricordo, da questo lavoro. Mi ricordo, ecco. Mi ricordo che siete venuti anche qui. Sì, no? Certo. Ecco. Farà parte anche lei dei nuovi incontri. Bene. Un grande dono è di Federico Tesser. Le cellule maschili ballano, fanno capriole, sono allegre, ondeggiano a serpente. In un momento speciale, uno spermatozoo incontra un ovulo triste e solo e gli offre un gioco unico. Felici e pieni d'amore, si stringono in un forte tenero abbraccio. Insieme giocano fino allo sfinimento. Poi si uniscono e creano il primo gioioso stadio dell'essere umano. Mi dispiace che i radioascoltatori non possano vedere il disegno, perché questi ragazzi hanno fatto e la poesia ed il disegno. Un lavoro egregio, devo dire. Un lavoro veramente doc. Io mi sono messa con questa poesia dall'altra parte, quello che hanno ricevuto i ragazzi e che hanno saputo trasmettere in questo stupendo libro Dentro la vita. Sì, sì, bello, bello, sì. Bello, bello. Oppure Irene Cescon, la vita dentro una bolla. Un bambino prima di nascere è legato ad una corda che gli dà vita e tira calci con piccoli piedini, nuotando dentro una strana bolla. Vede solo buio dentro la bolla, sente rimbalzare le parole, sogna la luce, immagina la vita, sogna il momento d'uscire, di vivere alla luce. Bella. Io mi emoziono. Questa è la scritta Irene Cescon. Mi emoziono ancora ora quando le leggo. Sì, perché precisione, la capacità proprio di ragazzi di quinta elementare. Sì. Elementare. No, veramente grandi. Bravi. Fabio Visentin, questo ragazzino è stato anche qui in radio a suo tempo. Può darsi, sì, sì, sì. È stato intervistato e lui ha già scritto un libro di poesie suo. Ormai ha già pubblicato un libro di poesie. Addirittura? Sì. Quanti anni avrà adesso? Dunque sono i ragazzini di quinta del 2010. Mamma mia, 16 anni. Giovani adulti, quasi alle superiori. È pubblicato un libro di poesie, pensa. Amore, questa è la sua poesia. Per formare un essere umano servono una donna ed un uomo che mettono insieme amore. Appena il bambino apre gli occhi alla luce del mondo, un raggio di sole filtra attraverso il dolore della mamma e rispecchia lacrime gioiose. È lui che dà allegria alla terra. Deve esistere sempre un bambino. Su questa terra non c'è nulla di così prezioso. Non si potrebbe dire meglio. Sì. Mi piacerebbe descrivere anche questi disegni, queste immagini. Beh, descrivilo un pochino. Una donna con un palloncino fatto a cuore, con un bambino in braccio e che ha appena lasciato andare il filo del palloncino. E da tutti e due i lati, da un lato e dall'altro, ci sono due lampioni con la luce accesa ed in alto c'è la casa che aspetta la donna che si sta partorendo. Sì. È una casa rossa, un cuore rosso, i colori che dominano questo disegno. E questo è il frutto del lavoro nostro, Gesi e Antonio, sì, che abbiamo svolto nelle scuole e che adesso riprendiamo. Chissà che qualche insegnante ci stia ascoltando questa sera e che qualche insegnante rifletta su quanto ho detto io questa sera e che magari mi chiami, ci chiami come team. Che magari possa avere anche qualche argomento per venire qui a raccontarcelo. Benissimo. Perché, insomma, Noi accettiamo persone, sì, che hanno argomenti validi, vi accettiamo. Benissimo. Una bambina russa, Natalia Timoshuk, non parlava ancora molto bene allora l'italiano, era da poco che era arrivata qui in questa scuola. No, no, e ha scritto questa poesia, Il bambino. Guardo alla finestra e penso, come nasce un bimbo? Immagino, tutto inizia con il grande bene che si vogliono mamma e papà. Il bambino così piccolo giace nel grembo dolce della madre. Piccolo, piccolo, poi grande come una rosa. E quante madri devono rinunciare? Ormai è più grande, ma non di molto. Cucciolo di tenero uomo. Aspetta, ormai l'uscita, ma è ancora troppo presto adesso. Il bimbo è ancora un feto. Quanto è atteso quel momento. Non fate mancare al mondo quel piccolino protetto dal liquido custode. Quel giorno infine arriva. Il bimbo nasce. Mi sveglio, ho immaginato il lungo tempo dell'attesa e la felicità dei genitori. Bella, la forza della vita. Forza, sì, della vita. Sì. È una bambina straniera che ha scritto questo. Non fate mancare al mondo quel piccolino protetto dal liquido custode. Sì, dove si vede che appunto ci sono barriere magari linguistiche, ma non barriere di sentimenti e di non emozioni. Non esistono barriere di sentimenti. Il sentimento universale che bisognerebbe ricordare ogni tanto. E che purtroppo si sta via via scordando. Occorre recuperarlo. Occorre recuperarlo e spero che il lavoro che faremo serva anche a questo. Adesso hai fatto tutti i lavori che ti hanno reso, oltre che, non so se denaro, ma anche soddisfazione. Denaro zero, anzi. No, ma perché hai detto che avete raccolto... No, neanche lo voglio, cioè non denaro per me, ma ogni mio lavoro è a scopo benefico. Ecco, appunto, questo volevo dire sì, io. Sì, in quel senso sì. Quel senso, ecco. A tutti i piccoli ascoltatori che questa sera sono stati, oltre ad ascoltarci, oltre i fili, io vorrei proprio fare un appello. Leggete poesia ogni giorno, ragazzi, bambini, ogni giorno della vostra vita. La poesia fa bene perché mette in esercizio muscoli che non si usano abbastanza spesso. La poesia sollecita i sensi e li mantiene in forma. Questo non è un pensiero mio, è un pensiero di Ray Bradbury. Grande. Grandissimo. Bradbury. Fahrenheit 451, Cronache marziane, un grandissimo scrittore. Basta chiedere Antonio sa tutto. Ma se vai, è vero? No. Antonio è veramente un'enciclopedia vivente. Poi un pensiero preso dal manuale del giovane poeta, Molesini, che ha pubblicato con Mondadori, e scrive... Per diventare poeti bisogna prima imparare a memoria 100 poemi, poi dimenticarli tutti e infine lasciare affiorare il nostro linguaggio, le nostre parole. Questo è l'appello che io vorrei fare a tutti i miei piccoli, ai nostri piccoli radioascoltatori di questa sera. Benissimo. Benissimo. Allora adesso... Con questo appello noi naturalmente andiamo a concludere con un brano musicale, sempre di Peppino Gagliardi. E salutiamo Settembre, che se n'è appena andato. Esattamente. Qualche giorno finirà l'estate e sulla spiaggia niente resterà. Le ore passate saranno un ricordo che noi porteremo lontano io e te. L'estate se ne andrà insieme al sole, l'amore se n'è andato già con lei. Le prime gocce baciano la sabbia e stanno già bagnando gli occhi miei. Settembre poi verrà, ma senza sole, e forse un altro amore nascerà. Settembre poi verrà, ma non ti troverà, e piangeranno solo gli occhi miei. Settembre poi verrà, ma non ti troverà, e piangeranno solo gli occhi miei. Eccoci di nuovo in studio per salutarci questa volta, e ringraziamo la poetessa Renata Alberti di averci concesso questa trasmissione, e con la speranza che torni in seguito. Grazie, grazie a Jesi, grazie ad Antonio. Quando mi chiamate io sarò sempre disponibile. Bellissimo. Sarò disponibile. Volevo concludere con un pensiero mio sulla lettura. Questo serve anche ad invogliare i ragazzi alla lettura. Per me, io dico quello che è per me, una muta confidenza che sa dividere lo spazio di tempo per accogliere l'oceano di pensieri che è in me. Io quando leggo svuoto lo spazio intorno, mi immergo così. Nell'oceano d'inchiostro, divento ladra di fantasie. Bene. Non si poteva dir meglio. Grazie, grazie ad Antonio, grazie a Jesi. Grazie, grazie a te. E a Dio piacendo, alla prossima volta. Allora, anch'io vi dico alla prossima, a sempre, a Dio piacendo, però col mio solito ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.